Natalia, te ti sentivo io, 10 Hz sotto, e mentre a Tonino lo sentivo 7 Hz, una cosa così. Adesso ti sento bene, per esempio. Giulio, come mi sta ascoltando? Io sono a 00. Anch'io sono a 00, perfetto adesso. Così è 00, anch'io sono perfetto. E quindi era Tonino fuori, te l'ho detto. Che vai mangiare? Però questo non è quello uguale al tuo. Capito l'hai, che apparato sto usando? Sì, ho capito. Anch'io io te lo sto dicendo, mica il mio è nuovo, mio. Dunque non è che posso dire che non vada bene. È nuovo, la salì. Eia, però io sto usando l'altro adesso. Sei perfetto, adesso sei perfetto. Tu a me bene mi senti, perfetto. Oh, ya, è una perfezione. Appunto, e te lo sto dicendo, è centratissimo. Però poc'anzi, quando eri in un USB, io a te ti sentivo 10 Hz di spostato, ti sentivo. E a Tonino lo sentivo 8 Hz spostato. Perché Tonino fuori, sono andato io a cercarlo. Basta! Ma giustamente stiamo usando apparati diversi da lì. È ovvio, io dico è ovvio che io sono leggermente spostato, io vado a centrarti, sono spostato il verso di te, quindi automaticamente mi devi centrare, ma è normale. Se io avrei avuto un apparato come il tuo, era 00 perfetto come te. Eia, ma adesso io sento benissimo lo stesso. Capisco, ma in AM siamo 27.075 ed è perfetto, trasmissione ed incensione. Vecchi, lasci l'info, mi sentite? Vabbè dai, io sto mangiando, là, vi ascolto. Tornate in AM. Ehi, capa, siamo in AM. Mia sceriffo, avanti sceriffo. Ciao a tutti, vi ho sentito e... per accendere, a salutarvi a voi. Mi sentite sempre? Sempre, Santiago Rovere 5, a me come mi ascolti di Apollo Torres. Non ho capito niente perché vi siete sopra modulati. Ho detto, sceriffo, e tu come mi ascolti di Apollo Torres? Radio 8, Santiago 8, Radio 5. Ok, ti ringrazio, tu sei Santiago Rovere 5. Ultimo sceriffo. Sono d'accordo, Antonio di nome. Roger, sono io, Antonio. Ok, riprendete perché sto facendo cosa. Ci siamo conosciuti anche a Fiume Santo, se ti ricordi bene, ero delegato sindacale della UIL. Quindi, con la dipenda. Sì, che ti sento, collega, mi senti a me? Grazie. No, non ho capito di sé, non me l'attivo. Ok, va bene, qua è Porto Torres. Attenzione, Gioia Tauro, mi copi Torino Kawasaki da Sassari. Gatto, ti ringrazio, anche tu 995 sia bomboletta, rete 5. Gatto, anch'io, solo baracchino e basta, non ho niente, ho solo un signor microfono, uno sciuro e basta, non ho altro. Ti mando qualche amico avanti, avanti Giulio. Ok, non so se mi sente, perché sto facendo con 2 watt, Tony. Attento, Gioia Tauro, ascolti Giulio da Sassari. Come non ti ascolto, Giulio? Santiago 9, Radio 5. Cosa ha detto, Tony? 9, Radio 5? Non ho capito bene, perché c'era la sovramodulazione. Sì, Santiago 9, Radio 5, Giulio. Con 2 watt, Tony, 2 watt. Stavo dicendo, ma poc'anzi quello sceriffo ti ha detto che c'era una sovramodulazione, non è vero, io ti ho sentito chiarissimo, non ho sentito nessuna sovramodulazione, a meno che lui non aveva qualche splatter da quelle parti sua. Comunque attenzione l'amico di Gioia Tauro, io ti ascolto molto bene, Santiago 8, Radio 5 è perfetta, non c'è problema, avanti ancora Gioia Tauro per Sassari. Ti ascolto bene, io sono solo di Ok, sì, una bella modulazione comunque. Naturalmente c'è un po' di QSB, però è dovuto sempre al discorso della propagazione. Vai, Tony. Capo, ovviamente stava abbassando la propagazione, sale e scende, comunque arriva perfettamente bene con l'amico di Giulietta, lo Reggio Calabria. Ok, Antonio, sceriffo, hai capito chi sono io? Sì, sindacalista della CGL, così, lì a Fiume Santo. Ma cosa CGL, sindacalista Will, ero con la dipenta di P2M. Ah, ecco la dipenta, ok, facciamo riprendere l'amico di Gioia Tauro. Avanti, Gioia Tauro, ci sei? Una cosa, Gioia Tauro, guarda se la mia popolazione aumenta come radio in questo passaggio 1, 2, 3, avanti Gioia Tauro. Ecco Catanzaro. Te l'ho sopravvolto Catanzaro, un attimino Catanzaro, ti copiamo anche a te. Cos'hai detto Gioia Tauro? Com'è la mia radio? Ha superato un po' meglio di prima? Cappa, ti ascolto, Radio 5, perfetta. Buonasera, 7-3, Antonio 4x4, provincia di Catanzaro. Cambio per te, se mi ha fatto entrare. Capa 4x4, Antonio, dai. Qua Antonino Kawasaki dalla città di Sassari, nord-ovest della Sardegna. Tutto qua, come mi ascolti, amico di Catanzaro, Antonio? Capa, ti ascolto. È una radio di qua, un pochino frusciata, ma di nuovo per te. Ho aumentato la radio, dimmi se mi ascolti meglio in questo passaggio. Santiago quasi 8, radio 4, buona, buona, di cambio. Capa, ti ringrazio Antonio, è ok, ti mando un altro amico. Avanti Giulio. Ok, attenzione, 4x4, ascolti Giulio da Sassari, con due volte sto andando, Tony, ho mal di gola, Tony, non posso continuare, scusami, ma devo smettere di parlare, ascolto comunque, dai, datemi scusa, non mi posso trattenere, ho troppo mal di gola, ci sentiamo un altro momento eventualmente, dai, comunque, grazie per la chiacchierata, io rimango qui lì che ti ascolto, no, Tony, non riprendo, dai. Ok, va bene, dai, ti capisco Giulio, dai, hai un po' di mal di gola, giustamente, rimani in ascolto. Rocco Rix, che a me ha fatto piacere ascoltarti Giulio, dai, non c'è problema, quando vuoi entra, siamo sempre su questo canale. Ok, bene bene, Giulio Tauro, avanti, ci sei? Cristiano Kawasaki, si può vedere. Chi è che chiama Kawasaki? Certo che ti copio. K, buono, grazie, sono da te, dalla provincia. Ok Massimiliano, se confondo con ese amico 78 la radio 45, ok? Sì, Kappa, Kawasaki, io ti saluto, ok? 51, Antonio 44. Non c'era Terinete, provincia di Catanzaro, ti saluto. Ok Kawasaki, ci sentiamo alla prossima. Ciao, buonasera, di nuovo per te Kawasaki, cambio. Kappa Antonio 4x4, al 100%, mi ha fatto piacere sentirti, dai, per la primera. Spero di copiarci in altre occasioni. Ok, buon pomeriggio, pure ti e buon carica quando lo farai. Stai bene, salutami il cuore familiare. Avanti Cosenza. Catanzaro, mi senti lo sceriffo da Porto Torre, Sardegna? Sì, capa, sceriffo, scendi di uno, cambio. Ok, ok. Avanti, chi c'è rimasto qua? Cosenza, ci sei? Oh, sono rientrato. Era per un po' di propagazione, un po'. Sì, te l'ho detto. Niente, Giulio ha fatto con X, rimane ascolto, ha un po' di mal di gola e non andava più di modulare, capito? Beh, io pure sono presa la gola qua, mamma mia. Manco mai, oh, io ho come fratello con l'influenza, sale e scende, sta febbre, domani gli devo fare il tampone, non so mai, ha vinto il Covid, boh, non lo so, speriamo di no. E niente, io grazie a Dio mi tengo ben riguardato, mi compro bene, eccetera, eccetera. Molte volte quando esco, trova che mia figlia, il papà, dice adesso così me lo sa carlato, io mi voglio bene. C'ho la certa età, giustamente, e quindi quando esco, basta un po' d'aria e ti frega, capito? Sì, infatti. No, ma io sono già un po' di tempo, saranno i 5 di che sono influenzato, no? Adesso non mi senti come sto parlando attorno a me, mi è giunto tutto il raffreddore, ma e sono dentro casa, ragazzi. Io meno male che insomma, grazie a Dio, niente, la mattina guarda, la verità, questo da diciamo tantissimo tempo, come mi alzo, ma che io mi alzo mutande in giro in cucina eccetera, mi viene 2-3 stornuti e poi mi colo il naso per consumo qualche fazzolettine e poi finito, ogni mattina così. Lo so, oh yeah. Io dopo sono raffreddato. Ma io la meno male. Ma Antonio non c'è altro più qua. Antonio ci sì. Non è entrato nessuno oggi qua. Torre se ne sarà andato il 23. C'è la Giovania, vabbè. Sì, un po' di preparazione. Un casotto, infatti quell'altro Gioia Tauro mi sembra che era, è scappato su un canale più su con lo sceriffo. No, più giù sono andati di un canale. Può partire la plata? Ah, più giù, vabbè, siamo lì comunque un canale. Sì, il tuo sceriffo l'ho conosciuto a Fiume Santo e lui portava un trattore, portava ogni volta un video di Bissolo la ruta e pensi a noi dai che si frottinghezza la ruta. Oh, è Musazzi, chissà se ce l'ha ancora i baffi. Io l'ho conosciuto tantissimi anni fa, Filippo, ma non mi ricordo neanche chi è la verità adesso. Io lo conosco da papà, sì, ho detto tutto. E io Burrita l'avrò conosciuto sicuramente in quella data lì. Allora cosa facciamo con la protezione civile per l'autore? Se con la paletta fermava le macchine a vive per Tavola e richiedeva documenti. Sei qua. E te immagini se accettavo un carabinieri? No, a Isidoro l'ha fatta più bella invece una ragazza, viene anche a conoscermi e io sono dentro quello yacht, Nicolo Grigio, e chi piace andare yacht alla finanza? Sei qua. Tutti ridendo, conti cimì fino in Chivo a Portoga, per carità. Ma per carità, vero? Che domani perché non ha agito, guarda in finanza. Oh, iaia, e che ci vuoi fare? Adesso mi sa che mi preparo un po' di pezzi di pollo, un po' di limone, adesso cappuccio, leggero, leggero. E cappa, io ho già mangiato. Oh, iaia, e sono a posto, là. E via da te. No, io ancora no, perché non ci riesco a mangiare presto. Almeno un po' di tempo. Le 8:00, 8:15 mi guardo la televisione, il telegiornale. Andare, comunque, putti che si incazzendi, E cappa, là. Anch'io mi guardo il telegiornale. Ci sentiamo alle prossime, Tony. Grazie per il QSO. Anch'io me ne passo in QRT adesso, dai. Io spiego tutto. Grazie a te, Rottari. Già ci sentiamo, saluta la concetta. Ciao, stammi bene, QRT da parte mia, esecutivo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, anche da parte della 50. Cappa, ciao.